l'idea di accelerare su questo punto nasce soprattutto all'indomani della Brexit. C'è una dichiarazione della Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, che è possibile ritrovare proprio all'indomani della Brexit, in cui appunto la governatrice chiede al governo di rendere effettivo questo diritto, che peraltro il territorio libero di Trieste ha sin dall'immediato secondo dopoguerra, cioè quello di essere appunto un porto franco, esentasse per la circolazione delle merci e quindi quello di essere un polo di attrazione per tutte le forme di commercio tra l'UE e i paesi extra UE. In particolare negli ultimi anni si erano intensificati di molto gli scambi commerciali con la Turchia. Ecco, all'indomani della Brexit la possibilità per Trieste di sfruttare questa opportunità cresce, proprio perché con il venir meno di un importante partner come il Regno Unito è il canale mitteleuropeo sfruttato da Trieste assume tutta un'altra rilevanza, e quindi questo diritto, che sulla carta esiste per Trieste da moltissimi anni, in realtà non era mai stato sfruttato appieno, perché mancava un decreto che potesse permettere di rendere effettivi questi diritti della no tax area. La novità però particolare del decreto è quella non soltanto relativa agli scambi commerciali, quindi al fatto che all'interno della no tax area le merci sono esentasse, ma soprattutto quello legato agli investimenti produttivi, nel senso che è lì che sta poi il vantaggio principale che viene sottolineato dai promotori dell'iniziativa, cioè il fatto che nelle aree legate alla no tax area non soltanto potranno transitare le merci esentasse senza IVA, ma potranno essere collocati degli stabilimenti di trasformazione di queste materie prime, di questi input che arrivano all'interno del porto, e potranno essere anche quei prodotti all'interno delle no tax area considerati come esentasse. Il promotore dell'iniziativa, che a cui è stata affidata appunto la gestione della no tax area, che è il presidente dell'autorità portuale di Trieste, ha dichiarato che c'è un grande interesse da parte della Cina, da parte di altri player internazionali, rispetto a questo insediamento, a questa zona industriale, perché comunque sarebbe un'ottima porta di accesso al mercato interno europeo passare attraverso Trieste, nel momento in cui è possibile collocare anche degli stabilimenti, degli investimenti. Infatti sembra da quello che si può leggere che siano arrivati già richieste di investimenti per circa 20 milioni e che siano più di 100 le assunzioni previste proprio in questi stabilimenti da collocare nelle zone della no tax area. Quindi da un punto di vista dell'occupazione strettamente locale sicuramente si tratta di un'opportunità per i cittadini di Trieste. Bisogna, secondo me, per dare un giudizio complessivo di questo, valutare come sempre quali sono le conseguenze che ciò provoca sugli altri tessuti industriali, su ciò che sta intorno all'Italia, fuori dall'Italia e anche all'interno dell'Italia. Cioè, ad esempio, il primo portatore di interesse di questa vicenda sicuramente è il mercato mitteleuropeo, cioè i paesi attorno al nucleo tedesco, proprio perché attraverso il porto di Trieste sarà possibile poi collocare senza costi proibitivi, perché comunque Trieste si trova nell'asse nord-est dell'Italia, degli stabilimenti che possano trasformare merci che arrivano da paesi che stanno al di fuori dell'Unione Europea senza pagare tutta una serie di costi legati ai dazi doganali, che invece pesano molto, incidono molto in questo senso. Quindi il primo portatore di interesse di questa misura non è tanto l'area industriale triestina, ma proprio chi ha interesse affinché si possa procedere alla trasformazione di input provenienti da paesi che stanno fuori dall'Unione Europea. E invece ci sono altri portatori di interesse che ne vengono colpiti, nel senso che ad esempio un trattamento simile non è stato riservato ad altri porti come quello di Messina, che nonostante abbiano un volume degli scambi più basso rispetto a quello di Trieste, possono essere pensati come nodi strategici per lo stesso motivo, cioè i commerci che provengono da tutti i paesi del Mediterraneo, quindi non solo la Turchia ma anche il bacino nordafricano, potrebbero beneficiare di punti no tax, esattamente come lo è stato Trieste. Ma appunto ancora l'attenzione su Messina non c'è, infatti sono diverse le lamentele anche da parte di chi fa impresa e commercio in quelle zone, e quindi il risultato può essere da un lato un miglioramento della condizione economica per chi beneficia dei posti di lavoro a Trieste, e sicuramente anche un'attrazione di investimenti collaterali con anche un un indotto che può nascere attorno a queste industrie. Tuttavia, come sempre, quando si tratta di politiche comunque mercantilistiche, nel senso che qui stiamo parlando non tanto di un sostegno strutturale agli investimenti, ma come sempre di una detassazione che tenta di attrarre, di rendere più conveniente a privati l'investimento, quando si parla di queste politiche c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde. E sicuramente quel qualcuno che può perdere sono anche altri competitor all'interno dell'Italia, soprattutto nel sud Italia, che non soltanto perdono un'occasione industriale, ma probabilmente si troveranno in alcuni casi anche a dover comprare le merci prodotte esentasse a Trieste invece di riuscire a produrle internamente. Tutto questo avviene all'interno dello stesso paese, quindi se il lato positivo di questa politica è quello di incrementare l'occupazione e gli investimenti in una certa zona del paese, lo si fa in una maniera tale che ci possono essere conseguenze negative per chi abita all'interno dello stesso paese, e quindi questo può intensificare la competitività all'interno dell'Italia invece che rendere l'intera Italia più competitiva nel complesso. Dal punto di vista della fiscalità, imprese che non pagano un centesimo di tasse, ma sappiamo che le tasse servono per mantenere anche il welfare, i servizi, le strade, eccetera, può rappresentare un problema? Anche questo può rappresentare un problema, e questo si collega anche in generale a quella che sembra essere la nuova direzione politica, diciamo non soltanto di questo governo che poi insomma volge al termine, ma anche in generale del Partito Democratico. Se lo colleghiamo alle ultime dichiarazioni di Renzi, quelle secondo cui il progetto del PD per il prossimo governo sarebbe quello di chiedere un disavanzo al 3% permanente, ignorando diciamo tutti quei vincoli del patto di stabilità e crescita che sono legati al PIL potenziale, questo significa che la via per la crescita immaginata da questo governo e anche eventualmente se ci sarà da un prossimo governo PD è quella della detassazione industriale. Detassazione industriale che quindi chiaramente produce una certa forma di vantaggi, ma che ha delle conseguenze sul piano distributivo pesanti, perché se questa detassazione dovesse pesare in maniera più gravosa di quanto ci si attende sulle finanze pubbliche, la soluzione in quel caso molto probabilmente non sarà quella di incrementare ancora di più il disavanzo, ma sarà in quel caso di tagliare servizi pubblici laddove si ritiene necessario, oppure quella di aumentare l'imposizione fiscale su altre categorie e quindi ad esempio di aumentare l'IVA in altri aspetti come si è già proposto. Quindi sicuramente c'è uno spostamento del carico fiscale possibile a seguito di questa misura su chi produce al di fuori di queste aree, quindi dal punto di vista distributivo è una via alla crescita che sicuramente può aumentare le disuguaglianze.